A partire dal 23 febbraio, nel corso dei prossimi mesi, sarà possibile partecipare su prenotazione agli aperitivi filologici della rassegna Lo spazio della parola. Sono qui con Francesca Florimbi, ideatrice e curatrice del progetto, docente di filologia della letteratura italiana all'Università di Bologna. Innanzitutto, ti va di raccontarci un po' come è nato questo progetto e qual è il suo intento? Allora, dunque, il progetto è nato in realtà lo scorso anno. Quest'anno stiamo già predisponendo il secondo ciclo ed è nato in realtà pensando un po' a una delle missioni principali dell'università. Noi abbiamo, diciamo, quando si parla di università si pensa alla ricerca, si pensa alla docenza, ma noi abbiamo anche la cosiddetta terza missione, che naturalmente non è quella di formare giovani o studiosi, ma è quella di condividere, far circolare il sapere con la società e con le persone comuni. E quindi diciamo che l'idea nasce proprio da qui, voler far circolare, veicolare il sapere accademico in un momento in cui peraltro quello che percepiamo è una carenza di osi, di riflessione, un deficit di pensiero che a mio parere andava in qualche modo affrontato. E quindi l'idea è nata l'anno scorso e nella prima edizione la riflessione è stata prevalentemente sul versante filologico antico con Ivano Dionigi, moderno con Paolo Italia, su quello psicanalitico con Vittorio Lingiardi, quello biblico con Ludwig Monti e semiologico con Stefano Bartezzacchi. E quest'anno invece l'idea è quella di puntare l'attenzione sulla parola della poesia, e questo sarà appunto il primo incontro, quello del 23 febbraio, e poi dopo dei media il 16 marzo con Pietro del Soldà, della canzone il 19 aprile con Francesco Guccini, e poi del teatro con Randisi e Vetrano che appunto proporranno la parola del corpo, e infine dell'aula universitaria con una collega, la Loredana Chines, una docente per la nostra università. E niente, l'idea quindi nasce proprio per riuscire a legare la città, Bologna, le torri alle toghe, potremmo dire le torri con le toghe, cioè la città all'università. Durante 5 incontri organizzati si rifletterà sull'uso appropriato, sapiente ed etico della parola. Ma perché oggi più che mai questo risulta importante? Questo perché fondamentalmente è questo il momento in cui una comunicazione che si fa sempre più totalizzante è, credo, importante riportare la riflessione sul valore della parola, sulle origini, gli usi, i cambiamenti della parola in diverse sfere e dimensioni, quindi naturalmente pensando a una sfera personale ma anche chiaramente quella sociale, quella storica e quella politica. È un momento in cui è fondamentale ridare il potere alla parola, una specie di ecologia linguistica, potremmo dire, che restituisca alla parola il suo vero potere, che è quello poi di svelare il vero, di svelare la verità. In un'idea che sia quella di far prevalere il senso sul mezzo. In queste occasioni saranno presenti inoltre alcuni ospiti competenti, noti, e è possibile anticipare già alcune delle tematiche che verranno sottolineate, esplorate, grazie al loro contributo? Ecco, semplicemente come accennavo prima, ciascuno porterà in campo una riflessione su quello che è il proprio bagaglio, la propria attitudine, la propria esperienza di vita, e quindi chiaramente apriremo con Alberto Bertoni, che oltre ad essere docente è poeta, quindi non potrà che riflettere sulla parola poetica, sulla parola della poesia. Pietro del Soldà, che è un autore, conduttore radio, che rifletterà sul tema della parola nei mezzi di informazione e di divulgazione. Francesco Guccini chiaramente non potrà che portarci nel suo laboratorio della canzone, nel suo laboratorio di cantautore. E poi Stefano Randisi e Renzo Vetrano, che in qualità di attori e drammaturghi metteranno a fuoco la parola teatrale, e in ultimo Loredana Chines, docente dell'Alma Mater, concluderà con delle considerazioni su quella che è realmente la parola accademica, la parola nell'aula universitaria.